A piedi stavo tornando a casa e notavo che ancora una volta, sulla solita curva che avevo davanti ad una cinquantina di metri, c'era il solito problema. Una di queste mastodontiche automobili di oggi, no? Formato famiglia numerosa, grandi consumi, era parcheggiata nel punto critico, proprio nel punto giusto per impedire che chi passa sulle strisce non vede se sta arrivando un'auto, e per impedire al contempo che chi sta arrivando in auto possa vedere se qualcuno sta attraversando la strada. Osservo, constato, rimugino di malumore le amare riflessioni di tutti i giorni. Mi dico se le faccio io, possibile che non le facciano gli altri, e soprattutto che non le facciano i vigili urbani, e faccio in tempo a vedere un paio di persone che in quel punto fatale stanno per attraversare, mentre sta d'altra parte arrivando una moto. Poi c'è un breve momento in cui non vedo più nulla. Vedo solo la macchia nera lucida dell'auto parcheggiata, che impedisce anche a me di vedere come stanno andando le cose, che vanno male, molto male. Un tonfo, un urlo, accelero il passo e mi trovo davanti al risultato. Molto oltre le strisce c'è una moto rovesciata, qualche metro prima c'è un corpo sul selciato, sulle strisce c'è un tizio con le mani nei capelli che urla la sua disperazione, nella parte opposta della strada, contro un albero, c'è un altro corpo. Corro e con me corrono altri. È evidente che la moto ha investito una persona che stava attraversando la strada, è evidente che un corpo, pur senza riuscire ad alzarsi, si muove a fatica, forse l'investitore, ed è altresì evidente che l'altro corpo, forse l'investito, non si muove affatto. Preso in pieno, è stato sbalzato dritto oltre la fine delle strisce sul tronco dell'albero per un impatto tremendo. Per l'ennesima volta analizzo il contesto dell'incidente. Sull'angolo da cui provenivano i passanti c'è la sede di una banca. Sull'angolo opposto, quello verso il quale i passanti stavano andando, sull'angolo opposto c'è una delle tante sedi di quella nota azienda che affitta e vende video. Sono due potenti attrattori di parcheggi indisciplinati e alla sperindio, nei cui confronti qualcuno, il perché lo saprà, nei cui confronti l'autorità sembra poco propensa ad intervenire con i suoi mezzi di repressione. Una cinquantina di metri prima un cartello stradale invita a moderare la velocità. È una situazione che conosco, una situazione analoga a quella che si è incancrenita davanti al supermercato sotto casa mia, no? Sull'angolo di una piazza, davanti ci parcheggia di tutto, compresi i tir, e chi arriva in auto per svoltare non può vedere chi sta attraversando sulle strisce se non quando ce l'ha davanti a non più di 3 metri. È ovvio che le frenate improvvise non si contano e che spesso non riescono ad evitare che chi stava attraversando si trasformi in vittima. Vittima di chi? Dell'automobilista, d'accordo. Dell'automobilista, d'accordo, per i rapporti di causa ed effetto presi in considerazione dalle leggi forse la risposta è sufficiente, ma per una coscienza politica non del tutto sopita la risposta non è affatto sufficiente. Chi ha parcheggiato impedendo la visuale ha le sue responsabilità, chi glielo ha lasciato fare anche. E già che ci siamo, alla sua responsabilità anche chi ha fatto sì che qualcuno glielo lasciasse fare. C'è una radice sociale e ideologica di questi eventi che non va mai dimenticata. Come nel fare una scoperta scientifica e tante altre cose, non si è mai soli neppure nel commettere un crimine. Thank you. Nel punto del tragico incidente ci ripasso il giorno dopo e rimango attonito. L'autorità è intervenuta. Per una volta l'autorità è intervenuta, ha osservato, ha constatato, ha fatto 2+2, ha fatto 2+2 ed è intervenuta. Avrebbe potuto assumere iniziative chiare e perentorie nei confronti dei due attrattori, no? Banca e mega video market, cartelli minacciosi, un vigile pronto con il blocchetto delle multe in mano, transennatura del posto proibito in cui le auto vengono parcheggiate mettendo a rischio la vita dei passanti. Manco gli è passato per la testa all'autorità di assumere un'iniziativa del genere. Tanto è vero che anche ora in quel punto è parcheggiata un'auto ricreando più o meno esattamente le condizioni del giorno prima. Avrebbe potuto spostare le strisce, creare un passaggio pedonale almeno una cinquantina di metri oltre la curva maledetta. Avrebbe significato la resa nei confronti del potere economico, diciamolo elegantemente così, ma sarebbe pur sempre stata una soluzione. Non l'ha fatto. Ci avessi dovuto pensare io, non ci sarei mai arrivato, neppure dopo aver riflettuto a lungo sulle malefatte dell'automobile e del suo spadroneggiante padronato negli ultimi 100 disgraziati anni della storia del nostro paese. L'autorità deve aver riflettuto profondamente sulla meccanica dell'incidente. Curva, vista impedita, pedoni che passano sulle strisce, moto che non rallenta, impatto, un pedone iettato a 5-6 metri di distanza contro il tronco di un albero. L'autorità è previdente. Avevano appena finito di fare il lavoro deciso con innegabile tempestività. Rimaneva solo da pulire un po' qua, un po' là. Hanno tagliato l'albero. L'anno scorso, ridente cittadina turistica, mi ero imbattuto nel mendicante con i due cartelli, no? Uno è informativo su se stesso. Scozzese in giro per il mondo cristiano, come dire che viene da lontano, che va lontano, che ci è metaforicamente vicino. L'altro cartello a fianco sulle modalità di fruizione, solo per oggi. Quest'anno su un palo di città c'è il volto di una signora o signorina che cerca un 43enne per una duratura amicizia cui due aggettivi potenzialmente dovrebbero conferire credibilità. La signora o signorina infatti si definisce ucraina e pulita. Ora, sono due esempi di povertà contemporanea e pur di codici retorici le cui matrici culturali sembrano distanti anni e anni l'una dall'altra. Da una parte la scaltrezza, il calcolo disincantato di chi reinterpreta se stesso come spettacolo, rassicurandoci tuttavia sull'eventualità delle repliche, solo per oggi, un'elemosina ben temperata. Dall'altra un'ingenuità medievale, l'umiltà di rappresentarsi con un valore obsoleto di cui nessun servo vero e proprio fra quelli cresciuti e pasciuti in questa società di consumi mai più farebbe uso. La strada, una scuola di vita. Nella stessa ridente cittadina turistica, nello stesso quartiere, ci sono tre vie. La prima è via G. Giusti. La seconda è via Petrarca. La terza è via Dante A. È un'ascesa ideologica. Dal nome proprio puntato e il cognome si può aspirare al solo cognome. E se proprio ci va proprio di lusso, possiamo mirare al solo nome proprio e dal cognome puntato. di superiore altrove c'è solo il nome proprio. Sì, ma con il tempo, come nel gioco dell'oca, si rischia di tornare fra i tanti dal medesimo nome proprio nel dimenticatoio dell'anonimato.